Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Sei come il libro aperto. Perché domande... fai sempre domande del cazzo. I matrimoni omosessuali sono un attentato alla creazione di Dio, al progetto divino. L'utero in affitto è qualcosa di ancora più grave, perché i bambini, invece di essere un dono di Dio, diventano una fabbrica come le automobili. Infatti ormai i giornali parlano chiaramente delle fabbriche dei bambini. Caro Hamas aveva previsto che questo sarebbe avvenuto, ma non sapeva che chi l'avrebbe portato avanti erano i suoi nipotini. È il tempo della corruzione generale, della venalità universale. La dittatura è una gran fregatura, se sei tu. Ma a volte uno strappo è una necessità. Questo, se non è il diavolo questo, ditemi dov'è il diavolo allora. E però ci vogliono far passare questo come se fosse una grande conquista dell'umanità. Sì, una conquista come la bomba atomica, con la quale distruggiamo noi stessi. Quello che mia figlia Angelica chiama Satana quando legge Geppo. E non iniziate ad allarmarvi, non è che hanno iniziato a ristampare Geppo, è che ho trovato un vecchio Geppo di quando avevo 12 anni, 11 anni. Insomma, Satana, il diavolo, è il diavolo. Per padre Livio Fanzaga ci sta mettendo proprio lo zampino, la coda, le corna, tutto. In questa vicenda che, ora lo dico, ora lo sto per dire alle 6:32 minuti, la vicenda delle discussioni dell'utero in affitto. È importante, eh? È un tema in agenda, eh? È una discussione, come dire, attuale, eh? Però lo sto dicendo. Lo dico. Ci ha frantumato il culo. Prima anche lui, ariosa la manovra del Milan per Mendes, posizione regolare. Mendes può calciare con il destro. Saluto tutti gli amici di Alessandria, forza Grigi, ma vi avevo detto, con il dovere di chi deve risvegliare i bambini dalle fiabe, che siete diventati grandi, le favole finiscono a una certa età, e quindi 5-0 porta a casa, e siamo stati anche generosi, insomma, 6 gol in 2 partite, a una squadra bella di Serie C, dai, è tornato Menez. Siamo in finale di Coppa Italia e perderemo con la Juve, ma va bene così, e... però dai, svegliatevi, siete diventati grandi, le favole hanno un termine a un certo punto. Però il vero nemico è il diavolo, il quale sta sferrando un attacco, vedo la Madonna, sta sferrando un attacco contro la famiglia per distruggerla, e dice: vedete come Satana vuole trarvi nel peccato e nella schiavitù. Satana sarebbe, Angelica lo chiama Satana, padre Livio Fanzaga, adesso non so se... Comunque, sono le 6:34 minuti, cari ascoltatori, questo è mercoledì, e mentre... cioè, voi vi rendete conto... c'è il Super Tuesday in corso in America, cioè stanno decidendo di fatto chi sarà tra Hillary Clinton, Donald Trump, forse i due candidati alla Casa Bianca. C'è l'economia globale, mondiale, l'economia italiana, Renzi che dice i gufi la smettano, stiamo ripartendo, c'è il problema dei profughi in tutta l'Europa, eccetera. Invece paginate su... politici a cui non sbatteva niente fino a un mese fa. Chiedevi in Parlamento cos'è l'utero in affitto, ti guardavano con le facce ebeti, quell'utero in affitto. Adesso tutti che fanno proposte di legge, dobbiamo fermare. Alfano ha detto dobbiamo legiferare e fermare a livello mondiale l'utero in affitto. Ma come minchia si fa a fermare dall'Italia a livello mondiale? Ma Alfano, ma ci rendiamo conto? Vabbè, dai, 6:35 minuti. C'è Lorenzo Nespoli in redazione, Peter Bescapè in regia. C'è intanto il nostro direttore Luca Dini, direttore di Vanity Fair. Luca! Ciao. Buongiorno. Tu segui il Super Tuesday, lo so. Ci sono novità, so che Hillary Clinton... Nessuna sorpresa. Hillary Clinton ha vinto in 6 stati per ora, su 11, credo. Sì, ha perso nel Vermont, come era... Vabbè, il Vermont è il senatore Sanders, no? E così pure Trump ha perso soltanto in Texas finora, come era prevedibile, quindi insomma, mi pare che sia chiaro quello che succederà. Cioè che Clinton e Trump saranno i candidati, saranno i candidati per i democratici e i repubblicani, vinceranno di fatto il Super Tuesday, però ci sono stati ancora che stanno, insomma, sono allo spoglio, quindi non sono stati ancora assegnati. No. Però, questo sta succedendo in presa diretta. Oggi, di solito il mercoledì, sapete che noi chiamiamo la nostra super rossa Paola Saluzzi, che però questo mercoledì non può, ma riprenderà mercoledì prossimo. E allora, caro direttore, ti ho convocato la nostra Veronica Gentili. Buongiorno! Wow, che esordio così. Veronica, tutto a posto? Cioè, hai visto la semifinale di Coppa Italia? Evidente, io ho fatto prima Milan-Alessandria, è chiaro, e poi dopo ho fatto tutta la maratona del Super Tuesday con Mentana. Scherzi, direttore, mica pettiniamo le bambole. No, non sa niente di calcio, quindi la stuzzico così. Sai dove gioca Totti? Ho guardato adesso su internet, sei molto molto spiritoso, qui sono soltanto questioni meramente locali, per questo lo so. Quindi lo sai che Totti. Anche io so niente di classe. Ma non è vero, dai, vabbè, tu sei interista, però che cos'è? Sei tu il Milan? Sì. No, ma infatti... Anch'io credevo fate così veramente, ero quasi sicura, però... Fate gli spiritosi, no, ma Veronica è uno spettacolo, cioè tu puoi chiederle, che ne so, chi... Ecco, per esempio, dai Veronica, no, questo dai, è facile. Non far ridere, ma con tutti i problemi che ci sono nel mondo. Ma no, però questo è facile. L'allenatore dell'Inter. Ma lo so soltanto grazie a Sarri. Con chi è, scusa? Lo so solo grazie a Sarri. Ah, lo sai che è, quindi Mancini. L'ho scoperto. Che Sarri, no? Certo, l'ha scoperto solo. Gli ha lanciato improperio, ho detto "Ma con chi ce l'avrà? Ma chi è questo Mancini?" Allora dai, l'allenatore della Juve. No, dai, non cominciamo, ti prego. Ma che vedi, ne so, cioè, siamo io proprio all'ABC, Luca, è un disastro. Posso buttarmi? Si può chiamare Allegri, no? Allegri, brava. Stamattina un applauso. Non mi fate dire parole tipo ciuculo, e quindi basta. Vabbè, dai, ha passato l'esame, cioè con l'allenatore della Juve ha veramente passato l'esame. Allora, Luca Dini, da dove vogliamo iniziare? Ce la vogliamo smarcare questa storia dell'utero in affitto? Guarda che io sono stato critico, lo sai, tra l'altro dimmi una cosa, tu l'hai sentito Nicky Vendola, perché lo ricordiamo, su Vanity Fair aveva raccontato i suoi progetti. Comunque. No, l'abbiamo contattato, insomma l'ho contattato ma non l'ho ancora sentito, no. No. Cioè, non ti suscita nessun dubbio. Guarda che anche a sinistra, Ritan Armeni. No, oggi i dubbi ne ho tantissimi, però non ho risposte. E trovo comunque intanto non voglio più sentire parlare di utero in affitto. Cioè, questa è un'espressione che contiene il giudizio incorporato. Quindi sarebbe maternità surrogata. Si dice maternità surrogata e dire paragonare dei bambini che nascono comunque, nascono e hanno una vita con le sue gioie e i suoi dolori, alla bomba atomica, trovo che se no, c'è chi è Satana, che la, chi è che la fa? Satana. È più in quelle parole. Sì. Ah, perché l'ho detto Don Fanzaga. Ah, no, mi è sfuggito. Io quando parla Fanzaga per me è come musica, non è che ascolto tutte le parole. Ma cioè, lui che è un uomo così tollerante, no? Che voleva impiccare Nuzzi e Fittipaldi, insomma, diciamo che è un uomo che non perde occasione per darci il senso proprio della carità cristiana. Lo so, però vabbè, lui è estremo nel suo giudizio, no? È io molto... comunque, siccome sto facendo i compiti a casa su questa cosa, perché voglio capire, no? Uh-huh. Quindi, per esempio, in questo numero abbiamo intervistato una signora dell'Università di Cambridge che da 45 anni segue, diciamo, famiglie di tutti i tipi. Sì. Cioè studia i figli di coppie diciamo tradizionali, dirà che adottive, di coppie che hanno fatto l'eterologa, di coppie gay, di coppie che hanno fatto la surrogata, e quindi l'effetto pare che sui figli non ci sia. No, ma che l'effetto sui figli non ci sia, però come diceva ieri... E la maggior parte di chi ha usato chi ha fatto ricorso all'eterologa continua ad avere rapporti con la madre biologica. Sì. Quindi c'è anche questa idea, perché ormai si parla soltanto dei casi aberranti. Sì. Questo no, però io ieri ho letto con attenzione l'articolo di Giuliano Ferrara, potete immaginare la posizione su questo tema, cioè non è tanto a dire nulla, anzi contro e nei confronti del bambino e dei bambini come crescono, forse qualcosa rispetto a noi e come noi ci poniamo di fronte alla genitorialità e al desiderio di fare bambini. So, tu, sì, però allora va detto su tante altre cose. Sì, no, ma sicuramente. Cioè pone tanti dubbi, ecco. Veronica, tu li avevi anche manifestati i dubbi qui, se non sbaglio. Però no, su tu, parte. Sciocchina, che non fai altro che liquidare questi argomenti dicendo che palle ormai, no? No, ma no, non ne ma possiamo vedi che ne più parliamo, di leggerli sui giornali. Vedi che ne parliamo. La realtà è che ci troviamo a confrontarci con un problema enorme, perché è un problema che appartiene a questa epoca, cioè non abbiamo dei precedenti a cui rifarci, non abbiamo una filosofia nel merito, quindi è molto problematico esprimersi su questi temi. Anch'io dubito moltissimo di chi ha certezze, di chi ha il verbo in mano, quindi poi a volte per spirito oppositivo, quando si sente dei toni troppo duri, per esempio nella faccenda Vendola, uno tende a diventare giustificazionista su tutto e a dire per favore lasciate vivere gli altri e ognuno poi ci fa quello che vuole con l'utero. Senti qua Crozza ovviamente lì non si sprecano, è Crozza su Vendola. E io voglio fare tanti auguri a questo bambino, però secondo me parte già con un problema. No, non quello di avere due papà. Il problema è che uno dei due è Vendola. Giova, immagino di chi Vendola, sai, con la sua narrazione che racconta Cappuccetto Rosso a suo figlio di 4 anni. Ci mette 30 anni. Vabbè, insomma, questo è Vendola, la narrazione. Perché mi hai chiamato sciocchina, sai, anche tu, Veronica? Se l'hanno scritto già una quindicina di ascoltatori, veniva bene però, su, dai. Va bene. Sciocchina viene bene, da oggi potrei usarlo come appellativo. Sciocchina viene bene, la sciocchina viene bene. Vabbè, Luca, adesso voglio fare la moratoria mondiale, è arrivato Alfano, la moratoria mondiale. Parte dall'Italia la riscossa con la moratoria mondiale nei confronti... Sì, magari lo aiuta anche l'ISIS, così. Sì, più o meno sì. Ecco, vabbè, che dobbiamo... Per esempio Alfano, no? Sì. Cioè, secondo me sta arrivando un grande momento storico, che è il momento di Verdini. Presente come quando nelle famiglie, tu lo saprai bene, no? Uno c'ha un bimbo e poi nasce la seconda bimba e il primo bimbo va totalmente in crisi. Ecco, adesso sta succedendo ad Alfano con Verdini, perché essendo entrato Verdini in maggioranza, Alfano... e Verdini, a differenza di Alfano, non pretende di pontificare, non gli frega niente di niente, l'etica, ti saluto, votiamo, quello che dobbiamo votare, votiamo. Tra un po' Alfano la fa finita di fare lo statista e di pensare che lui incide profondamente col suo 0,002% nel mondo reale. Vabbè, certo. Che purtroppo è arrivato Dennis, quindi è arrivato Dennis. Mamma e papà non gli Alfano, sostituzione bene. Sostituzione è più o meno sta venendo così, è sostituzione in maggioranza, e infatti dicono che adesso Verdini si potrebbe unire con Scelta Civica. Questo è creare ala più Scelta Civica, entrare di fatto nel governo, potrebbe. Però scusate, ho avuto dei raffi. Con l'utero in affitto, così ci sentiamo un po' meno sparate di Zanetti, sì? sull'etica, anche la moralità. Anche Zanetti non ti piace, mamma mia, ma oggi ti sei svegliata proprio col piede sinistro. Oggi è così. Oggi non le è piace così. Nessuno. Però oggi io dico, sciocchina. Allora, sciocchina, sciocchino, in politica vale tutto, Luca, vale tutto, vale imbarcare Verdini, vale adesso cambiare, cioè vale tutto, insomma, pur di governare bene i numeri. Ma senti, io non lo so se vale tutto. Io continuo a interessarmi più al cosa che al chi e al come. Però forse sbaglio. Insomma. Il cosa. Lo so. Per esempio, adesso Renzi dice... Mi pare che si parli molto e soltanto del chi e del come. Mm. Effettivamente il cosa è interessante. Cosa quale vedi? Quale cosa? No, esatto, perché qui Veronica è molto dura, adesso qua su Renzi... No, sentite per esempio Renzi, il trionfale Renzi. Renzi è contento. Per 3 anni il segno dell'economia italiana era il meno. Adesso siamo al più e sarebbe assurdo non guardare questa novità come un fatto positivo. Prima di aprire il derby su quali tasse abbassiamo nel 2017, mi piacerebbe sottolineare che in questi anni le tasse sono andate giù. Perché in Italia e poi Renzi dice col PIL che sale, i gufi e le chiacchiere dei gufi stanno a zero, no, cara Veronica. Le chiacchiere dei gufi. Detto da Renzi è già un ossimoro anche quello, perché per uno che vive di chiacchiere, le chiacchiere stanno a zero, non funziona. Le chiacchiere stanno a zero. Allora, devo andare a dare le informazioni sul traffico. Devo dire che stanno arrivando, vabbè, tanti messaggi, i soliti messaggi un po' banali. Veronica, che gran figa, Veronica, vabbè, Veronica di qui, Veronica di là, Veronica di su, Veronica di giù. Allora, ci ha mandato, sì, c'è un paragone, Veronica Alfano. Ci ha mandato il selfie come sua tradizione. Caro Lucadini, tu hai perso questa tradizione, caro direttore, di mandarci una foto di qualcosa, di appena ti svegli. Il direttore è un esperto, scusami. Qualsiasi cosa. Io vi voglio bene. Ma non mi vuoi bene, ma puoi fare anche un mobile, un pomello del cassetto di casa. Cioè, quello che... Ma è buio qua. È buio. Sveglia tutti. Questa è ottima, questa me la rivendo sicuro io. Sveglia tutti, accendi la luce. Scusa, sei in diretta su Radio 24, che ci frega. Poi spieghiamo tutto in famiglia. Allora, ci dicono anche che ala più scelta civica ascella, potrebbe essere ascella, il nuovo mostro politico che stanno partorendo. Dai, andiamo al traffico. A Milan, io voglio sentire il traffico. Ragazzi, Salvini è un grandissimo paraculo. A Roma non gli piace Bertolaso perché ha visto probabilmente che i sondaggi andrà a fini male. E allora adesso ho tirato fuori la storia delle primarie. Ma quello le primarie ce l'ha come io c'ho di andare a far il papa. Guarda, è l'anticristo delle primarie. Dottor Milan, tante professoresse e professori si sono esclusi dal fare le gite scolastiche, troppa responsabilità. Io sono una di queste. Io quasi quasi in Svizzera, oltre che a lavorarci, ci vengo quasi quasi a vivere. Almeno qui stepchild adoption lo sanno pronunciare. Omina, sono fiorentino. Ora io sono in un posto che lasciamo perdere, veramente lasciamo perdere, e sono di un altro pianeta io rispetto a voi, hai capito? Ciao. Vabbè, ciao Fiorentino, ti avevo riconvocato, ma in un altro pianeta, ma non ci hai detto niente. Che vuol dire? Più bello, più brutto? Era abbastanza calmo il Fiorentino. Era calmo perché 2 giorni che mancava, adesso c'è il meratese di Merate. Tu conosci Merate, Veronica? Merate. Sicuramente sta al nord, dal suono. Mamma mia, Merate, in provincia di Lecco. Vuoi dire qualcosa contro Merate? Guarda, no. No, paracula. Cerco di tenere a bada il mio animo secessionista. Ecco, allora. Ci ascolta il meratese, ha convocato il Fiorentino. Il Fiorentino, insomma, l'ho convocato, ma un po' depresso mi sembra. Fiorentino, sei un po' depresso, Sei avvilito. Sì, senti qua i nostri amici su WhatsApp, intanto, al 349-238-6666. Buongiorno Paola, come stai? Sei guarita? Sai, io mi preoccupo, sono il tuo camionista medico curante. Ma non c'è la salute. Un abbraccio. Ma non c'è. Mega anche... epic fail del nostro camionista. Questo è effetto di Satana, anche questo. Sì, esatto. Luca, il nostro camionista che voleva e pretendeva di guarire dalla febbre. Paola Saluzzi, ma insomma ha sbagliato Mercoledì. Che deve fare? C'è stato un attimo di confusione. Sì, allora, voi avete... no, vi faccio sentire questo di Di Battista. Sentite qua del Movimento 5 Stelle. Il canone della RAI non lo pago. Perché noi cittadini dobbiamo pagare il canone a voi per mentirci? Di fatto avete lottizzato la RAI inserendo personaggi vostri anche ultimamente a RAI 3. Io, sottosegretario, la televisione non ce l'ho, il canone non lo pagherò, spiegherò ai cittadini come non pagarlo e sarà un piccolo atto rivoluzionario. Ah, capito direttore, il piccolo atto rivoluzionario del Movimento 5 Stelle. Vabbè, lui dice non ha la TV, quindi non lo deve. Vabbè. Però dice... inviterò a non pagare. Comunque nella giungla di questa cosa si paga il canone per tutti i device in generale, non sì. più soltanto per le televisioni. Non per la radio, per esempio. Chi ha la radio state sereni e tranquilli. Tu puoi stare scialladissimo. No. Però, che dici? Anche perché voglio capire chi paga il canone per sentire te, abbi pazienza. Eccola. Sciocchina. Era perfetto, tu. Sciocchina. Perché, qui c'era, avevo paura che dopo un po' hai una crisi di identità. Capito, direttore, la chiamo così per prendere delle frustate in diretta. Io vengo qui apposta la mattina, capito? Mi alzo, vabbè. No, però direttore, che ne pensi di questa cosa di non pagare il canone? È una rivolta fiscale che puoi capire? Ma come tutte le rivolte fiscali, insomma, io personalmente non sono d'accordo con la rivolta fiscale, poi il canone, ognuno ha diritto di dire che non è d'accordo, non è giusto, così come ha diritto di esprimere un'opinione sulle ultime nomine. Io chiaramente non sono esattamente d'accordo, però lo rispetto. Sì, no, quello sì. Comunque, ma il criterio di Di Battista non è tanto quello, è più che altro il discorso sull'informazione che in qualche modo è sempre deviata, e quindi è più un discorso politico, una polemica politica. Deviata, adesso. Ma è sempre quello. Più che altro preoccupiamoci di quello che ha detto ieri Di Maio, più che Di Battista, cosa a proposito del discorso. Cosa ha detto? L'ha sentito solo te. Cosa ha detto? No, purtroppo, se tu il pomeriggio, che fai il pomeriggio? Vabbè, non ci facciamo domande. Dorme, per questo, capito? Che ha detto, dai, Di Maio? Che ha detto? Ha detto che bisogna indire un referendum popolare, tra l'altro fino a prova contraria sono abrogativi, per decidere se le adozioni gay vanno bene o meno. Ah, questo è vero, il referendum propositivo non esiste. Chi polemizza avendo il verbo in mano sull'utero in affitto, sui bambini col codice a barre, dovrebbe a maggior ragione spendersi per le adozioni alle coppie omosessuali, perché se si dice che bisogna privilegiare il bene dei bambini, ci sono tanti bimbi. Sai come dico, già... come dicono a Merate, anca mo. Lo vedi però che la butti sempre in caciara, ma come si no, fa? No, la butto in caciara, no, ma per carità. Ha ragione. Sono ossessionato, peraltro, non ho capito qual è il suo problema. Appunto. Vabbè, cioè, il problema è che Beppe Grillo ieri ha fatto una lettera al Corriere con delle posizioni ben precise. Sì, aspetta, lasciamo perdere. Non ti è piaciuta, direttore? No, per niente. Ma perché no? Cos'è che non ti è piaciuto? Perché non mi piacciono questi moralisti a intermittenza. Mettiamola così. Ma è moralisti vero, a intermittenza. Soprattutto perché tutti quanti hanno su questo veramente il verbo, quindi ognuno dice i bimbi nell'epoca low cost, la mercificazione. A maggior ragione, se il problema è legato alla mercificazione del corpo della donna e ai bimbi che vengono ordinati, è pieno di bambini che sono in orfanotrofi e in istituti. Allora intanto uno cerca con le adozioni di fare un lavoro e di far sì che le coppie omosessuali o i single possano adottare. Perché sicuramente i bimbi stanno meglio con degli adulti che gli vogliono bene piuttosto che in orfanotrofi e istituti. Quindi su questo almeno si dovrebbe dare braccio dato. Io qua devo chiudere. Ho il numero di Vanity Fair che c'è in edicola e c'è una Sofia Loren. Beh, già sai, anche nel momento degli Oscar. A proposito, Oscar che Luca Dini, diciamo la verità, ha azzeccato. Aveva detto l'ha sfangata. Aveva detto se non vince DiCaprio, mi dimetto da direttore di Vanity Fair. Di la verità, che li hai seguiti un po' con la gocciolina di sudore sulla fronte. Abbastanza. C'è Sofia Loren in copertina con una bella intervista, è abbastanza rara, perché non è che parla, no Luca? Non è che parla. Sì, poi è divertente. E vabbè, c'è anche, mamma mia che fighi, Flavia Pennetta e Fognini. Li conosci, Veronica?